Letture di Radio 24. Posti in banca che si trasmettono quasi geneticamente di padre in figlio. Ma che succede se il figlio vuol fare qualcos'altro? Si chiede Massimo Gramellini in un editoriale pubblicato sulla Stampa. Unicredit si è impegnata con i sindacati a privilegiare le assunzioni dei figli dei dipendenti purché la parola sia laureata e in grado di spiaccicare un po' di inglese. Si tratta di un progresso formidabile. In tante altre aziende, e non solo bancarie, i figli prendono il posto dei padri anche se sono dei perfetti caproni. Con tutto che si può essere perfetti caproni con una laurea e un paio di... How are you? Il lavoro come diritto ereditario è uno dei cardini del nuovo Medioevo. E oltre alla casta dei politici, oggetto di esecrazione collettiva, ci sono 100.000 caste con l'iniziale minuscola, ma anch'esse con un mucchio di figli da sistemare. La mobilità sociale è uno splendido argomento di conversazione, come la meritocrazia. Ma appena ci si siede a trattare con il datore di lavoro, l'orizzonte etico si riduce precipitosamente al solito familismo amorale. Mio figlio prima di tutti, anche di chi è più bravo di lui. Dopotutto, chi sarà mai più bravo di mio figlio? Uno studente che non ha genitori in banca si starà probabilmente chiedendo il senso delle sue fatiche e se non gli convenga piuttosto intentare una causa di paternità a qualche dirigente dell'Unicredit. E chi il genitore in banca ce l'ha e però magari desidera diventare carpentiere, flautista o costruttore di macchinine per i plastici di Porta a Porta finirà per tarpare le ali alla sua vocazione, perché il privilegio esercita un'attrazione fatale, a cui soltanto i puri di cuore e di intelletto, altrimenti chiamati matti, riescono a sottrarsi. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Massimo Gramellini, Un posto in banca, dalla Stampa del 21 ottobre. Letture di Radio 24. Di fronte all'avanzare dei partiti ultranazionalisti, c'è chi, come Angela Merkel, dichiara che il multiculturalismo è ormai fallito. Come dimostra un'inchiesta pubblicata qualche giorno fa sul Sole 24 Ore, il quadro delle politiche sull'immigrazione presenta notevoli differenze tra i vari paesi che compongono la comunità europea. Ma se alla fine molti immigrati riusciranno ad inserirsi con successo nelle società europee, resta il problema dell'Islam. Non facile da risolvere perché, come sottolinea Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, si tratta di far convivere sullo stesso territorio due civiltà che si sono combattute per secoli. La dichiarazione del cancelliere Angela Merkel, il multiculturalismo è fallito, è stata interpretata da tutti come una constatazione di fatto sugli errori della politica dell'immigrazione tedesca degli ultimi decenni, ma anche come il segnale di una svolta imminente. Anche in Germania, come in tutto il resto dell'Europa, la questione degli immigrati è ora un problema politico di prima grandezza. Dare risposte incoerenti con le domande dell'opinione pubblica può significare perdere le elezioni. È la nuova grande questione che divide e dividerà a lungo le democrazie europee e che va ad aggiungersi alle più tradizionali divisioni sui temi economici. Partiti anti-immigrati sorgono come funghi e fanno pienoni elettorali in tanti paesi europei. Dove questo non accade è solo perché i partiti più tradizionali, già insediati, hanno indurito per tempo il loro approccio all'immigrazione. Martedì scorso il Sole 24 Ore ha pubblicato un'utile inchiesta sulle politiche europee dell'immigrazione, mostrando un quadro assai differenziato. Si va dai paesi fino ad oggi più accoglienti, come la Svezia o l'Olanda, che però stanno sperimentando forti rivolte anti-immigrati, a quelli più chiusi come la Grecia. Ma non è difficile immaginare che le varie democrazie europee, adattandosi alle domande delle loro opinioni pubbliche, col tempo finiscano tutte per convergere su politiche selettive che mettano più filtri e più rigorosi di quelli utilizzati nel recente passato. C'è la reazione delle opinioni pubbliche, ma c'è anche un'incertezza obiettiva su come fronteggiare il problema. Nessuna delle due strade fin qui adottate, quella originariamente francese dell'assimilazionismo, chi arriva deve spogliarsi della precedente identità per abbracciare identità e cultura del paese ospitante, e quella originariamente anglosassone del multiculturalismo, sembra funzionare. Il multiculturalismo, soprattutto ben prima che lo riconoscesse la Merkel, appariva più un sogno da idealisti che una politica realisticamente praticabile. Il multiculturalismo prevede infatti che le varie culture presenti sul territorio vengano preservate anche con leggi apposite e che le diverse comunità culturali si autogovernino per tutti gli aspetti che riguardano la tutela della propria identità. Una società multiculturale è una società segmentata, divisa in tante comunità culturali che si suppone, non sentendosi minacciate nelle proprie tradizioni, siano in grado di coesistere pacificamente. Ma il punto è che una società siffatta è difficilmente compatibile con la democrazia. Salvo specialissime eccezioni, può essere tenuta insieme solo con un alto grado di coercizione, in un modo non democratico. Per questo il multiculturalismo non è una politica adatta per le democrazie europee. Gran Bretagna, Olanda, Germania avevano scelto quella strada e ne hanno verificato l'impraticabilità. Ma se la via francese, l'assimilazionismo, è difficilissima e quella multiculturale impraticabile, che fare allora? Assistere passivamente al montare dei conflitti? Il problema della maggiore o minore capacità di una convivenza con la nuova immigrazione dipende non da uno, ma da un insieme di fattori. La qualità e il rigore dei filtri predisposti, le politiche dell'immigrazione in senso stretto, i cicli economici, la capacità di offrire servizi agli immigrati che lavorano, la capacità di reprimere i comportamenti illegali, eccetera. Ma dipende anche dalle tradizioni di provenienza e appartenenza degli immigrati. È inutile girarci intorno. Ci sono immigrati che, per la tradizione di provenienza, possono trovare un ruolo nei paesi ospitanti. E col tempo potranno forse anche essere assimilati nel senso francese del termine, e se non loro, i loro figli, con relativa facilità. Episodi di intolleranza anche gravi ci sono e ci saranno, ma nel complesso molti immigrati, soprattutto dell'est europeo, riusciranno ad inserirsi con successo nelle società europee occidentali. C'è però il caso dell'Islam. Non è casuale che proprio ai musulmani e non agli altri immigrati si faccia sempre riferimento quando si constata il fallimento del multiculturalismo. Ciò che ovunque in Europa si teme è che una crescita eccessiva delle comunità musulmane, grazie anche al differenziale demografico, finisca per imporre le trasformazioni più forti nelle regole di convivenza delle società europee. La domanda di cui nessuno conosce la risposta è la seguente: cosa può succedere quando due grandi civiltà altrettanto forti e orgogliose, come quella europea cristiana, oggi anche liberale e democratica, e quella islamica, che si ispirano a principi e norme antitetiche e che anche per questo si sono aspramente combattute attraverso i secoli, si trovano a condividere lo stesso territorio e lo stesso spazio politico? La risposta dipenderà in parte da noi europei, dagli atteggiamenti che assumeremo e dalle politiche che adotteremo, ma in larga parte dipenderà anche dall'evoluzione del mondo islamico. Se il ciclo fondamentalista connesso al cosiddetto risveglio islamico, che ha investito l'Islam mondiale negli ultimi decenni, non si esaurirà presto, dovremo attenderci aspri conflitti e fortissime tensioni anche in Europa. Altro che pacifica convivenza multiculturale. Se invece quel ciclo, raggiunto un picco e punte di massima espansione, andrà ad esaurirsi, come è possibile che prima o poi accada, allora nasceranno forse esperimenti inediti e interessanti. La democrazia potrà misurare il proprio successo anche sulla sua capacità di favorire la piena adesione dei musulmani immigrati alle regole della società aperta e libera. Oggi ciò non appare probabile, ma è lecito, perlomeno, sperarlo. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Angelo Panebianco, Musulmani d'Europa, dal Corriere della Sera del 21 ottobre. La grande madre Russia ha smesso di fare figli. Ogni anno perde circa 1 milione di abitanti. E di questo passo potrebbe svuotarsi completamente, come i suoi gelidi territori a nord-est, in 140 anni. I dati dell'Agenzia di Statistica Nazionale Rostat sono chiari. Nel 2009 i morti sono stati 2,2 milioni, i nati 1 milione di meno. Un trend che dura dal 1995 in un paese che ha anche il primato degli aborti, 1,7 milioni l'anno. In Russia sono pochi gli immigrati che tengono in attivo i bilanci demografici di paesi a bassa natalità come la Spagna, la Grecia, la Germania e l'Italia. Da noi i morti superano i nati di circa 13.000 unità medie l'anno. Solo grazie agli stranieri la popolazione cresce e rispetto al 2009 siamo lo 0,5% in più. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Irene Soave, La madre Russia non ha più figli, da Vanity Fair del 27 ottobre.